questo incontro ci risulta particolarmente gradito innanzitutto perché è stato proposto da un gruppo di lavoratori e di lavoratrici dell'editoria, che poi si presenteranno da soli. La denominazione che hanno assunto è Redacta, la sezione redazionale di Acta, quindi verranno dette delle parole su questa esperienza. E a partire da una situazione di difficoltà di lavoro e di lotta, hanno proposto di riunirsi qui in un incontro con i lavoratori e le lavoratrici del magazzino di Stradella, che avevano nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, bloccato in modo consistente la distribuzione del libro. Quindi due figure molto diverse e distanti dello stesso settore, dello stesso oggetto fisico addirittura, tant'è che l'iniziativa è stata intitolata Cartalotta, il libro nelle mani di chi lo lavora, dalla redazione al magazzino. E quindi che si tratti di un'iniziativa che ci è stata proposta da lavoratori e lavoratrici che non fanno parte di questo centro sociale, alcuni dei quali mi risulta che forse non c'erano mai venuti prima, insomma ci ha fatto parecchio piacere. Persone normali, quindi noi abbiamo apprezzamento e ricerchiamo tutte le forme di vita più estreme, strane, ma se ogni tanto arrivano persone normali e oltretutto giovani, è altro motivo di compiacimento. Ecco, i contenuti dell'incontro saranno loro stessi a esporli. La forma che avevo pensato, le due volte che ci siamo beccati per organizzare la cosa, è quella di un dialogato che sarà coordinato da lui, che ha assunto consapevolmente questa funzione, il rischio. E, a me è stato chiesto di dire due parole sulla Calusca, sostanzialmente, perché come è risultato nei giorni scorsi anche a proposito di Genova, quando diversi compagni si sono accorti con anche una certa drammaticità che erano passati 20 anni da Genova 2001, lo stesso avviene per chi sta in Calusca, per chi lavora in archivio. Gli anni passano e cose che sono in qualche modo sapute perché sono entrate nella tua vita non lo sono evidentemente per tanti altri, quindi due parole sono necessarie al riguardo, anche perché appunto nel caso della Calusca si tratta di un arco temporale ancora più ampio che Genova, in quanto la Calusca è vicina a fare i suoi 50 anni, perché nacque nel 70-71 e quindi si va, anzi cioè meglio 71-72, quindi si va per i 50 anni. È stata una presenza molto forte nelle vicende del movimento e della controcultura a Milano e non solo. È riuscita a sopravvivere a varie traversie di locazione, ha avuto diverse sedi, sempre qui in quartiere ticinese, sulla strada, nelle vie del Ticinese, e infine a trovare accoglienza all'interno di questo centro sociale occupato e autogestito, che pur esso è nato in quegli anni. Un po' dopo, il primo nucleo dell'occupazione risale al 76, poi con gli anni 80 arriva la generazione punk, si riesce a resistere a tre sgomberi e quindi siamo ancora qui oggi. In tutto questo lungo arco temporale la Calusca ha fatto da punto di connessione tra molte esperienze di ricerca e di attività editoriale. Uno degli obiettivi che Primo ha sempre avuto è stato quello di favorire le iniziative di scrittura, di presa di parola, di carta inchiostrata che venivano dal basso, dalle situazioni sociali più diverse, e l'altro obiettivo è stato quello di far circolare nella maniera più ampia possibile i materiali anche più strutturati che il movimento andava producendo. E a questa attività che ha fatto proprio della Calusca una specie di laboratorio, perché molte idee, ipotesi di ricerca, teorie politiche hanno avuto qui uno spazio di parola, di confronto prima ancora di diventare dei testi, prima ancora di diventare delle riviste o dei libri. Questa funzione ovviamente ha seguito il corso e i diversi profili che il movimento negli anni ha assunto, ma da parte di Primo c'è stata sempre una estrema curiosità e sensibilità alle soggettività nuove che via si manifestavano, in una ricerca mai della sintesi, perché sintesi non è data, ma dell'interazione, del confronto anche serrato, perché è solo nella parola vis-à-vis, nella verifica, poi nel tentativo di verifica delle idee, che si può legare la mano col cervello, l'idea con la pratica. Ecco, questa attività ha avuto un'articolazione molto importante anche sul piano della distribuzione, perché a metà degli anni 70 è nata una struttura di distribuzione, che poi sarà la Punti Rossi, che è riuscita in particolar modo nel 77, ma anche successivamente, a far circolare i materiali che venivano prodotti in tutta Italia, dalle situazioni più grandi fino alle più piccole, realizzando con pochi mezzi e facendo forza sulla rete di movimento quello che ai tempi la distribuzione normale non riusciva a realizzare. L'Italia era sostanzialmente divisa in tre: nord, centro e sud. Una cosa prodotta al sud, almeno che non fosse di un grosso editore, non arrivava a Milano. Ecco, invece la Punti Rossi, costruendo una rete di piccole librerie, appoggiandosi o comunque usando di piccole librerie, centri di documentazione, posti dove circolavano questi materiali, usando anche del movimento fisico che i compagni giovani portavano avanti molto intensamente in quegli anni, perché ci si spostava allora molto di più di quanto ci si sposti oggi, con tutti i mezzi di fortuna, eccetera. Fatto sta che le cose arrivavano tempestivamente al di fuori di una contabilità monetaria, perché questa è una cosa molto importante. Senza soldi però si riusciva nella rete di movimento a far arrivare anche il foglio, il volantino, che innanzitutto era penalizzato dalla mancanza di un valore economico che potesse renderlo scambiabile con un qualche equivalente. L'equivalente era un equivalente ideale, un equivalente interno al movimento. Ecco, questa è molto, molto sinteticamente, certo non la storia, ma un accenno di che tipo di posto, di situazioni, di presenze sono state qui e si cerca di mantenere qui, perché appunto dopo la morte di Primo ci si è messi insieme e si è riusciti a tenere aperta la libreria e poi a dar vita all'archivio a lui intitolato. Ecco, l'ultima cosa che, vabbè, se volete ve la dico, se no la magari diciamo dopo, trattandosi di lavoratori e lavoratrici del Saggiatore, abbiamo pensato di accennare, poi lo riprenderemo magari successivamente, ha un'esperienza di lotta e di organizzazione importante e nuova che al Mondadori Saggiatore fu realizzata all'inizio del 69. Molti conoscono il Comitato Unitario di Base della Pirelli, esperienza molto importante dell'organizzazione extrasindacale di quegli anni. Pochi sanno che anche al Saggiatore Mondadori era nato un comitato di agitazione di lotta, un CUB. E in un momento estremamente importante per la storia dell'editoria italiana, perché in quegli anni si realizzava il passaggio dall'editoria semi-artigianale all'editoria industriale, all'industria culturale di massa. Ecco, in questa lotta, in questa elaborazione, furono posti una serie di contenuti e di questioni molto importanti proprio su cosa significhi fare cultura, su quale sia il profilo soggettivo ma anche materiale del lavoratore dell'industria culturale. E quindi su questa esperienza e sui testi che furono prodotti allora magari torneremo in un incontro successivo, perché un'altra cosa che ci ha fatto piacere a noi della Calusca è che questo gruppo di lavoratori e lavoratrici hanno chiesto di successivamente avere un momento di approfondimento proprio su queste esperienze di produzione editoriale alternativa, underground, di base, come la vogliamo chiamare, e di distribuzione fuori dei circuiti commerciali. Adesso volevo solo accennare alla cosa, perché comunque è sempre stato un nostro pallino tenere insieme momenti dispersi, magari alcuni dei quali sconosciuti, di una storia che è comune, e insomma è meglio che non sapere un cazzo di quello che è avvenuto prima di noi. Ecco. Non dico altro e lascio la parola ai convenuti, che ringrazio ancora per l'offerta che hanno fatto. Grazie Roberto, buonasera a tutte e a tutti, e grazie alla Conchetta, alla Calusca, alla Libreria, all'Archivio Primo Moroni per aver ospitato questa iniziativa. Io sono Andrea, faccio parte della redazione di Officina Primo Maggio. E come diceva Roberto, noi abbiamo pensato di organizzare insieme alle redattrici e redattori di Redacta questa iniziativa con l'idea di stabilire un confronto con i protagonisti dei conflitti lungo la filiera del libro. Quindi a tal proposito abbiamo pensato di invitare, oltre alle redattrici e redattori di Redacta, anche i facchini e le facchine di Stradella, della Città del Libro di Stradella, che è stata di recente, ma non solo, il luogo di conflitto e divertenze che hanno avuto degli esiti importanti. Quindi abbiamo due lotte che si posizionano, se vogliamo, a due capi della filiera del libro. Da un lato la prima lotta che possiamo ascrivere, ricondurre al lungo ciclo di lotte della logistica, non mi soffermo molto su questo, magari lascio anche dopo lo spazio per discutere di questo, un settore che nell'ultimo periodo soprattutto ha visto anche acuirsi in seguito alla pandemia l'asprezza del conflitto, sindacalisti che muoiono durante i picchetti, aggressioni, inchieste alla magistratura. Ne parleremo magari con Massimiliano del Sicobas di Pavia, che ci racconterà anche un po' la genesi del conflitto che c'è stato a Stradella. E poi abbiamo le rivendicazioni che da un bel po' di tempo stanno portando avanti attraverso pratiche anche interessanti le redattrici e i redattori di Redacta. Due lotte che insomma possono essere viste anche nella loro diversità presunta o tale, e che ci faceva piacere quantomeno mettere in relazione per poter discutere insieme anche sul contenuto di questi conflitti stessi, sul contenuto di queste lotte, ma anche per poter trovare un confronto, un dialogo, per poter solidarizzare banalmente, per potersi confrontare e per poter cercare di riflettere anche un po' sulle contraddizioni, i limiti e le prossime elaborazioni. Quindi sollecitare un dialogo, ecco, questa era la nostra idea iniziale. Alla base di questa idea c'è una rivista che si chiama Officina Primo Maggio, che stiamo cercando di portare avanti. Qui con me ci sono anche altri membri della redazione, c'è Sergio, c'è Carlo, c'è Sara, c'è Mattia, che fa parte sia della redazione di Officina Primo Maggio che di Redacta. E questa è una rivista che eredita l'esperienza politico-culturale di Primo Maggio, quindi per noi è ancora un motivo di maggiore, come dire, ci fa molto piacere ancora di più essere qui, anche come si può immaginare, era da tempo che con Robertino si pensava di organizzare un'iniziativa che potesse mettere insieme un tema a noi anche caro, che è quello del conflitto, insieme anche alla presentazione sostanzialmente della rivista, una rivista che potete trovare al banchetto lì. È uscito l'ultimo numero proprio fresco di uscita, potete trovarlo lì, un numero ricco di contributi e insomma, se volete appunto sostenere questo progetto, lì c'è il banchetto e insomma potrete trovare l'ultimo numero della rivista, ma anche i numeri precedenti. L'ultima cosa che volevo dire prima di lasciare la parola a Emanuela è che alla base, come vi dicevo, c'è questa rivista e c'è un'idea di inchiesta, c'è un'idea di inchiesta come metodo che è fondamentale per l'evoluzione stessa del conflitto. Quindi alla base c'è questa idea anche di praticare l'inchiesta come una, come dire, come uno strumento anche per far mettere insieme anche le idee e farle evolvere nel corso di processi che hanno a che fare poi con i conflitti sul lavoro. Quindi ora lascio la parola a Emanuela, che ci racconterà un po' cosa significa lavorare in editoria. Dopodiché magari chiedo a Massimiliano di raccontarci un po' la storia del conflitto alla Città del Libro di Stradella, e magari poi dopo, come vi diceva Robertino, lasciamo spazio a interventi per un dibattito, insomma, per discutere un po' insieme di tutto questo. E vi ringrazio ancora per l'attenzione. Emanuela, ecco a te. Grazie. Se lo prendo esplode? No, no, perché è altissimo. Ok, buonasera a tutti e a tutte. Allora, sì, non è semplicissimo in realtà fare dare un quadro, diciamo, che valga un po' per tutti, probabilmente, per quello che significa lavorare in editoria. Quindi ho pensato di partire un po' da quella che è la mia storia personale, non perché sia particolarmente interessante, ma perché comunque contiene dei punti che secondo me sono un po' in comune con tutti quelli che lavorano in editoria come freelance. Io ho iniziato un paio di anni fa a collaborare come appunto collaboratrice esterna con una casa editrice che si occupa di fumetti, fondamentalmente, quindi una mia passione abbastanza recente ma abbastanza viva, ecco. E ci sono arrivata senza avere fatto master o studi specifici, che di solito è un po' la strada che chi vuole lavorare in editoria poi segue. Ma in realtà ho semplicemente una mia laurea in comunicazione e ho mandato il curriculum praticamente per caso, proponendomi come social media manager inizialmente, poi però il lavoro l'hanno dato a un'altra persona e a me hanno proposto di correggere bozze, perché di correttori di bozze c'è sempre bisogno, quindi visto che più o meno sai che cos'è questo lavoro, allora dai, puoi farlo anche tu. Ok, a me la cosa piaceva perché comunque era un tipo di lavoro che non mi aspettavo di poter fare, ma che in realtà mi interessava molto di più del social media, quindi ho accettato subito. E dopo una prova, in realtà, mi hanno chiamata poi in redazione e la prima cosa che mi hanno detto, che mi hanno messo sul tavolo, sono stati i compensi. Compensi che, vabbè, si vedeva subito, ecco, che erano abbastanza bassi. E non tenevano conto fondamentalmente del tempo che io avrei impiegato a correggere le bozze, non tenevano conto di quanto le bozze sarebbero state lunghe, semplicemente un pagamento a pacchetto concluso. Però chiaramente, spinta dalla grande passione per il mondo del fumetto e per il lavoro in sé, ho detto vabbè, fa niente, dai, tanto un po' più vicino. Ok, gavetta, sì, mi sento molto meglio anch'io. Gavetta bisogna farla, il lavoro mi interessa un sacco, basta, vado, fa niente, anche se mi pagheranno una miseria. E In realtà poi con il tempo ho scoperto che sì, il lavoro continua ad appassionarmi, dopo 2 anni lo sto facendo alle stesse condizioni iniziali, ma vabbè, insomma, non è molto sostenibile. Però è un tipo di lavoro che ti isola fondamentalmente, e forse questa è la dimensione più spiacevole, nel senso che se almeno prima del Covid potevo andare ad esempio in redazione a recuperare le bozze cartacee, quantomeno, quindi facevo 2 chiacchiere con gli editor, ecco, vedevo delle facce, ora non c'è neanche quella dimensione lì, quindi io non so chi sono quelli che fanno il mio stesso lavoro, per esempio, non vedo più, non so assolutamente chi siano, come si chiamino le altre persone, perché i nostri nomi di correttori di bozze non compaiono sul colophon, non so se avete presente, ma è quella, diciamo, la parte iniziale del libro in cui compaiono un po' le persone che ci hanno lavorato, ok? E quindi mi sono ritrovata nel tempo a capire che forse era una situazione un pochettino strana, quantomeno, ed è stato anche un po' per quello che poi personalmente mi sono trovata a cercare online e trovare Redacta, che comunque è stato un po' diciamo un approdo sicuro, ecco, per rendermi conto che non ero proprio l'unica ad essere in condizioni lavorative particolari. E diciamo che la mia giornata lavorativa, se possiamo chiamarla così, inizia la mattina quando io vado ad aprire la posta e scopro se ho del lavoro. Quindi non lo so prima, non so prima se avrò dei carichi di lavoro disumani e pazzeschi o se avrò dei vuoti per giorni, settimane, e quindi fondamentalmente si campa un po' così nella precarietà, e anche quando ci sono tante tante bozze da correggere io faccio solo quello comunque. Non mi trovo mai a riuscire a dire no, vabbè, dai, questa la lascio da parte, non riesco a farla, perché comunque anche se nessuno ne parla direttamente c'è sempre un po' quel discorso del tipo ok, però magari se rifiuto poi non me ne danno più, poi magari arriva qualcun altro che prende il posto mio, che è una cosa bruttissima perché il tuo compagno praticamente diventa il tuo competitor quasi. E quindi ecco, ho pian piano capito che l'unico modo forse per affrontare un po' questa mia situazione, che in realtà mi accomuna praticamente alla stragrande maggioranza dei lavoratori e lavoratrici dell'editoria come freelance, è proprio il confronto, il parlarne e il creare della relazione, perché il grosso problema forse del settore editoriale, non so se anche di altri perché non ne conosco, è che è tutto un po' nel fumo, nella nebbia, no? Quindi non c'è certezza su, non so, contratti, cosa che io non ho, tra parentesi, e pochi in realtà hanno, non c'è una uniformità in realtà di contratti, perché anche quando qualcuno ce l'ha, comunque è un contratto usato in modo molto personale, molto opportunistico, diciamo, cercando un po' di andare al risparmio, no? Quindi si trovano molti stagisti, molti collaboratori a progetto e non si è mai inquadrati in una maniera stabile, ecco, proprio perché comunque le redazioni stanno pian piano esternalizzando sempre di più il lavoro, quindi loro diventano gruppi sempre più piccoli e di fatto i freelance sono persone super, come posso dire, super specializzate, che si trovano o nel mio caso a fare solo correzioni di bozze e nient'altro, oppure nella stragrande maggioranza dei casi probabilmente a curare il libro poi in realtà un po' dall'inizio alla fine, ok? Quindi il lavoro è sottopagato anche in questo senso, perché comunque si chiede tanto al freelance, si chiede di revisionare il testo, di riscriverlo a volte, di impaginarlo, di fare la ricerca, non so, per le immagini della copertina. Quindi tu comunque dall'inizio alla fine ti occupi del libro, lavori che tendenzialmente poi le persone che lo comprano non vedono, perché appunto non c'è il nome scritto da nessuna parte. E bene o male, dai dati anche che avevamo raccolto come Redacta con la nostra inchiesta che avevamo fatto nel 2019, adesso mi prendo un attimino l'appunto, ma la stragrande maggioranza delle persone che lavorano come freelance, anche per 50-55 ore a settimana, prendono praticamente meno di 15.000 euro all'anno lordi, quindi è abbastanza, insomma, da correggere questa situazione, solo che appunto non ci sono dei tariffari fissi, quindi è difficile anche capire qual è il minimo sindacale, fondamentalmente è difficile districarsi in questa giungla, soprattutto per una persona poi che in realtà è nuova e entra così in un mondo che non si sa bene come sia fatto, perché appunto è tutto molto fumoso, molto, molto tenuto nascosto, diciamo, in qualche senso. Questa almeno è la mia impressione. E niente, quindi proprio alla base di questo, del fatto che comunque sono tipi di lavori che non ti permettono di arrivare alla fine del mese, quindi o ti devi trovare un lavoro secondario oppure devi mettere l'editoria in realtà come lavoro secondario, credo che sia, appunto, come dicevo prima, molto importante la dimensione relazionale. Quindi già il fatto che siamo qui a confrontarci anche tra diverse categorie professionali, cercando insomma di mettere un po' insieme le lotte, diciamo, in questo senso, secondo me è molto importante, quindi grazie di esserci e grazie a voi, non voglio rubare altro tempo. Grazie Emanuela. Lascio subito la parola a Massimiliano, il Sicobas di Pavia. Massimiliano, se ci vuoi raccontare un po' in breve la storia. Allora, in breve risulterà molto difficile, ma ci proverò, perché in realtà quello che è successo alcune settimane fa è il risultato di una vertenza che praticamente dura dal 2016, quindi è stato l'ennesimo picchetto, l'ennesimo sciopero che la Ceva di Stradella ha visto. E vi dico che invece la realtà di sfruttamento, che mi dispiace sapere esiste, ma non avevo dubbi purtroppo, anche nel mondo dell'editoria, e che io reputo sia molto simile in un certo qual modo anche al mondo della distribuzione del cibo, della ristorazione, perché anche là ci sono questo tipo di contratti che non prevedono un fisso, che prevedono molte volte un forfettario, che non ti danno alcun tipo di garanzia occupazionale e devi vivere un po' sul chi va là. Nessuno vuole prendersi la responsabilità di assumere una persona e dargli delle garanzie. Tutti vogliono cercare un'estrema elasticità per andare a ridurre i costi del lavoro. Questo avviene di norma nel lavoro della logistica. È necessario fare un doveroso passo indietro, perché sarebbe veramente è un peccato essere venire qua a spiegare solo i motivi dell'ultima vertenza. Dovete sapere, dovete conoscere, secondo me, cosa c'è dietro all'acquisto di un libro in libreria, perché è fondamentale capirlo. Allora, le logistiche nella quale vengo io non si occupano assolutamente né di stampare il libro, né di editarlo, né di fare niente di tutto questo. Il libro arriva dalle stamperie già bello che è finito. Noi ci occupiamo dello smistamento, della lavorazione e della distribuzione del libro in questione. Cosa succede nella maggior parte dei casi, ma non solo nell'ambito editoriale, ma in tutte le logistiche? C'è un cliente che si rivolge a una committenza e in pratica gli consegna l'attività della logistica e della distribuzione di un prodotto. In questo caso parliamo del libro. Cosa succede? Solitamente questa committente si occupa del lato prettamente impiegatizio della questione, cioè la gestione degli ordini, la quantificazione degli ordini e di tutto quello che è la questione delle fatturazioni e dei prodotti, dei resi che arrivano e degli ordini in generale, insomma. E invece poi dopo questa committente subappalta il lavoro fisico, il lavoro reale, non che non sia reale, anche in quello impiegatizio non ci mancherebbe, voglio dire, ma il lavoro, diciamo manuale delle attività, a se ti va bene direttamente a una cooperativa, ma nella maggioranza dei casi, come purtroppo anche la nostra, addirittura a un consorzio che a sua volta distribuisce a diverse cooperative. Voi dovete sapere che alla Ceva di Stradella io nel 2010, essendo un italiano medio che non aveva nessun tipo di esperienza a livello di cooperative, a livello sindacale o di sindacati, cioè io ogni tanto vedevo le bandiere rosse fuori, sinceramente vi dico anche che ero un po' dubbioso sul motivo per la quale delle persone protestassero all'inizio, quindi per me è stata una sorpresa poi trovarmi a fare quello che faccio oggi, onestamente. Soprattutto ringrazio anche il SICOBAS per avermi fatto ricredere che esista un sindacato realmente attivo e realisticamente attivo, perché io sinceramente avevo anche perso fiducia nella mia storia personale. E ritornando al sistema, queste cooperative che cosa fanno sostanzialmente? Sfruttano la sezione cooperazione speciale del contratto per diciamo ridurre il costo del lavoro. Perché? Perché questa sezione cooperazione permette di andare a spostare il pagamento, l'integrazione di alcuni istituti al regolamento interno delle stesse. Quindi che cosa fanno? Le aprono, fanno l'assemblea dei soci, che di solitamente sono quelli che sono i soci associazionari, chiaramente, stipulano un regolamento interno e offrono un contratto come socio lavoratore, che è molto diverso da essere un dipendente. E di conseguenza tu, se vuoi aderire all'essere socio di una cooperativa, devi assolutamente accettare il regolamento interno. Cosa scrivono? Cosa permette il contratto collettivo nazionale? Di demandare il pagamento dell'infortunio, il pagamento della maternità, il pagamento della malattia, la distribuzione degli istituti, ferie, ROL, permessi, tredicesima e quattordicesima, non sulla base del canone che dovrebbe essere nel caso della logistica 168 ore, ma sulle ore realmente lavorate. Questo permette a questi consorsi di aggiudicarsi le gare d'appalto che i committenti fanno a minor prezzo rispetto ad una società che realisticamente deve pagare tutto. Questo è quello che viene oggi. Nel 2010 la situazione in Ceva era molto peggio di quello che sto dicendo, che già oggi avviene. Nel 2010 io facevo parte di una delle 24 cooperative che operavano all'interno della Ceva di Stradella. Voi dovete sapere che non solo erano cooperative, e già questo è un male, ma erano cooperative che non rispettavano neanche i vincoli di cui vi ho parlato prima. Erano cooperative che adottavano un contratto che fortunatamente oggi non esiste più, il contratto UNCI, e neanche lo rispettavano. Cioè io mi ritrovavo a prendere, peccato non l'ho portata, la porterò un'altra volta, la mia prima busta paga, così almeno vi rendete conto di quello di cui sto parlando. In poche parole, io mi ritrovavo a fare dalle 280 alle 330 ore di lavoro al mese obbligatorie e a percepire 6,40 euro lordi, senza gli straordinari, senza ferie, non maturavo ferie, senza la maturazione dei permessi, senza la tredicesima, che contrattualmente anche se l'UNCI la prevedeva, senza la quattordicesima, perché anche l'UNCI prevedeva la quattordicesima, e senza le festività, niente di niente, prendevo 6,40 euro lordi. Come mi venivano pagati questi 6,40 euro lordi? Magari mi venivano messi tutti in busta paga, no, assolutamente. Mettevano quello che volevano, mi davano un foglio che non era niente di quello che avevo fatto, e c'erano delle volte che prendevo, magari, siccome prendevo il pagamento attraverso due bonifici, magari ci avevo, che ne so, una busta paga da 4, 5, 600 euro e poi avevo il resto in un secondo bonifico che quantificavano loro come meglio credevano fosse il caso. La cosa più assurda è che io ero uno dei fortunati, perché almeno avevo una busta paga. Perché invece c'erano dei miei colleghi che facevano parte di altre cooperative che addirittura una volta al mese arrivavano dei personaggi nel parcheggio e pagavano con assegni postdatati, perché questo, che poi molte volte risultavano vuoti quando andavano a riscuotere, molte volte, non sempre, fortunatamente per loro, e se chiedevano la busta paga veniva 80 euro. Eh sì, perché doveva pagarla un lavoratore la busta paga. Era un lager, ragazzi, non era un posto di lavoro. Io ero entrato in una realtà che da cittadino italiano non pensavo che esistesse. E c'era una paura folle di fiatare, perché in realtà, oltre al fatto che non c'era nessun tipo di garanzia contrattuale e non c'era alcun tipo di modo di poter replicare o fare qualche, diciamo, protesta, o comunque se tu manifestavi anche solo la volontà di chiedere il perché questa busta paga fosse così, ti lasciavano a casa, perché funzionava così: ti chiamava la cooperativa, se rompevi le scatole, litigavi con un responsabile, avevi da dire su qualunque cosa, eri a casa 3 giorni. Questo era più o meno come funzionava. Lavoravi, se ti andava bene, 12 ore al giorno, perché c'è chi ne lavorava anche 16, da lunedì alla domenica. Non potevi rifiutarti di andare un sabato o una domenica, perché se ti rifiutava stavi a casa 3 giorni. C'erano i caporali che giravano, perché non erano responsabili, erano caporali. Se ti vedevano dire buongiorno, buonasera a un collega tra una corsia, ti facevano timbrare mezz'ora, stare fermo, e poi ritimbravi. Capitava che dopo 12 ore al giorno eri anche stanco, voglio dire. Io, un episodio che capitò a me, perché è necessario aprire una parentesi. Se io sono qua oggi a parlare con voi è perché quando nel 2010 ho iniziato a fare questo tipo di attività ero appena andato a convivere con quella che è mia moglie, e quindi sentivo addosso a me una responsabilità. Non volevo deludere le aspettative dei genitori, di mia moglie, dicendo ho perso il posto di lavoro. Non avrei retto neanche un mese, diversamente parlando. Era una realtà che io, era un incubo per me andare a lavorare lì dentro. Però mi sentivo questo carico di responsabilità, e quindi sono stato zitto, sono andato diversi mesi così a lavorare. E cosa è capitato un giorno? Un giorno stavo scaricando un camion. Voi dovete sapere che di norma scarichi un bancale alla volta, invece no, lì li sovrapponevano, e quindi diventava un po' difficile. Se il camion aveva fatto una curva, delle volte devi stare molto attento. Li ho rovesciati un giorno. E il responsabile mi ha detto: adesso timbri. E io gli ho detto: perché timbro, scusa? E ho detto: perché lo metti a posto. Ci vorrà 1 ora e mezza, erano 3.300 libri su 2 bancali. Ho dovuto riformulare i 2 bancali, e per 1 ora e mezza non sono stato pagato, non mi hanno messo neanche nessuno ad aiutarmi. Era così, funzionava così. E quindi sostanzialmente, se stavi zitto, avevi la possibilità, da un contratto a tempo determinato, di avere il contratto a tempo indeterminato, cioè di prolungare l'agonia a tempo indeterminato. E quindi io l'ho avuta, perché per 3 mesi ho fatto lo schiavo, e mi dovevo anche ritenere fortunato, perché molti miei colleghi ci sono voluti 3 anni, 4 anni, 5 anni prima che potessero avere un indeterminato. Io, fortunatamente, essendo entrato appena aveva aperto, avevano bisogno di stabilizzare qualcuno, e io sono stato tra i fortunati, chiamiamoli così, a essere stabilizzato. Va bene, adesso vi ho descritto più o meno quello che era. Cos'è successo? Io nel 2012, dopo 2 anni, ho avuto un dibattito molto, molto forte con un responsabile, e ho avuto un evento a casa significativo, dove si è fatto male una persona a me cara, che oggi è ancora vivo, oltretutto è mio testimone di nozze, ed è tetraplegico. Quindi cosa è successo? Sostanzialmente è successo il venerdì questo, era in rianimazione a San Raffaele di Milano, e sono andato al capo impianto. Ai tempi io ho detto: guarda che il sabato e la domenica io non ci sono, ho avuto un episodio molto grave in famiglia, non riesco a venire. E questo mio capo impianto mi rispose: ai tempi va bene. No, in realtà ho avuto un dibattito, una grande litigata con lui. Non gli ho detto quello che era successo, perché sono fatti miei, non mi andava di condividere, di fare pietà a nessuno, semplicemente era un mio diritto. E niente, lui mi ha detto: va bene, fai quello che vuoi. Dopo un'accesa discussione, io ho detto: non so se lunedì tornerai più a lavorare. Ho detto va bene, io ho detto vediamo se non torno più a lavorare, perché a quel punto era diventata una questione personale per me, capisci? Era diventata una cosa che non potevo più tollerare dopo 2 anni vissuti così e dopo quello che mi era successo. Il mio carattere, la mia testa si era sbilanciata non più nel stare zitto, evitare problemi, ma volevo affrontare una guerra e sarei andato fino in fondo. Cos'è successo? Purtroppo ho sbagliato sindacato, italiano medio, chi conosce la CGIL, e mi sono rivolto alla Camera del Lavoro di Pavia. Mi hanno fatto tante promesse, innumerevoli promesse, io mi sono esposto perché pensavo di essere nel giusto, lo ero nel giusto. Io ho raccontato quello che mi facevano, mi hanno detto di stare tranquillo, mi hanno fatto esporre e tutto quanto, sono diventato RSA, eravamo circa 20 di persone che avevo racimolato, erano oltretutto gli ultimi arrivati, perché gli altri che erano già lavoravano da Milano era impossibile metterli assieme. Non appena arrivata l'iscrizione e soprattutto la mia nomina è RSA, boh, basta, è cambiata proprio. Proprio, se era già negativa è andata a peggiorare molto la mia vita, cioè in poche parole lavoravo 2 settimane al mese, perché ero una settimana lavoravo e una settimana mi lasciavano a casa così giusto per divertimento. Mi hanno fatto scendere dal mezzo, io sono un operatore qualificato, guido i retrattili, guido tutto quello che c'è, tutti i mezzi insomma, ma mi davano la scopa e la paletta, il mocio, lo straccio per la polvere, mi facevano pulire le scaffalature, mi mandavano i colleghi di lavoro a prendermi in giro, passavano le colleghe dicendo guarda vieni a casa mia a pulire quando hai finito, robe così insomma. E io però dentro di me pensavo lo stanno facendo apposta, io non crollo, ho un indeterminato, a casa non mi possono lasciare. Devo essere sincero, l'unica cosa che mi ha lasciato la CGIL, l'unica però ripeto, è stato farmi conoscere un contatto della provincia del Pavese. E a quel punto io sono entrato in fase di guerra, cioè non cosa facevo? Mi lasciavano a casa, mi mettevo in malattia, e tanto non veniva pagata, però almeno la parte dell'INPS dopo il quarto giorno arrivava, quindi 2 lire arrivavano a casa. E sono andavo alla provincia Pavese, facevo foto, registravo audio e facevo scivere articoli sulla provincia. Questa è stata una guerra fredda che è durata 1 anno e mezzo circa, e dove me ne hanno combinate di tutti i colori veramente. E però è stata una guerra fredda, dopo che ho fatto denunce ovunque, non è intervenuto nessuno, che ha portato fino diciamo a una resa, non che abbia risolto qualcosa, semplicemente hanno detto Donadelli se rompi i coglioni ti rimettiamo sul mezzo, però piantala di rompere i coglioni. Però io non ero ancora soddisfatto, sinceramente, perché sì, ho guadagnato cosa? Una parte del rispetto, ma mi ritrovo ancora con 800 euro al mese, voglio dire, non va bene. E cosa è successo? Una cosa, un episodio che me lo ricordo ancora, è stato quello più decisivo. Ci fu uno sciopero del Sicobas di fronte al magazzino, in un altro magazzino che si chiamava Dico. Sì. E venimmo a sapere che questa Dico faceva parte dello stesso consorzio dove lavorava l'editoria e che il Sicobas dopo 4 ore di sciopero aveva risolto tutto. Quindi le persone che mi vedevano un po' come diciamo un punto di riferimento, ero l'unico che avevo portato il sindacato, ero l'unico che avevo alzato la testa, ero l'unico che aveva preso i calci in culo, così tanti, cominciarono a venire da me e dire ma andiamo al Sicobas, chiediamo del Sicobas. E io all'inizio avevo terrore, cioè io avevo appena sistemato la condizione, è vero che guadagnavo 800 euro al mese, ma quantomeno mi rompevano più i coglioni, e quindi era un po' titubante. Poi soprattutto sapevo con chi avevo a che fare, perché dei 20 iniziali, praticamente alla prima scossa di terremoto, sono rimasto solo, quindi non mi fidavo onestamente. Però alla fine mi sono fatto convincere almeno a prendere delle informazioni, e conobbi Arafat, e che devo dire che è stato quello che non sarei mai stato io, che forse neanche oggi potrei essere stato. È stata la persona che ha avuto più pazienza, penso, che conosco, che abbia mai conosciuto nella mia vita, perché io non ho avuto subito un impatto positivo nei suoi confronti, anzi ero un po' il rompicoglioni nelle assemblee, ero un po' la persona che andava sempre contro, e Arafat, io sinceramente una persona così non lo so se l'avrei assecondato. Arafat invece decise di farmi RSA, quindi aveva un suo progetto chiaro, e è successo l'impossibile, quello che io dicevo a lui che era impossibile. Dalle 15 persone che hanno alzato la testa in quel bar dove conobbi Arafat, nel giro di pochi mesi, nel 2016, stiamo parlando che ho conosciuto il Sicobas, ad agosto li conobbi, ad ottobre eravamo già 80 persone e avevamo già firmato il primo accordo, che per me era un miracolo. Cioè da lì io ho cominciato a ricredere nel sindacato. Era una cosa, ragazzi, non potete capire quanto è cambiato la vita dopo il primo accordo all'interno di quel posto. Cioè da che prima eri in un carcere, adesso avevi prima di tutto, al di là dell'aspetto economico, il rispetto della persona. E poi avevi una busta paga leggibile dove le tue ore realmente erano nella busta paga. Cioè era una cosa assurda. Io e lì e basta, e lì ho capito che il sindacato è vero. Le trattative non erano come quelle della CGIL che mi portavano ed erano finte, poi dopo scoprivo che c'erano gli accordi sotto banco o che quando chiamavo al telefono non mi rispondeva. Le trattative erano vere, io presenziavo le trattative, era un grande rompicoglioni oltretutto nelle trattative. E niente, diciamo che da lì abbiamo iniziato con questo miglioramento negli orari di lavoro, facevamo i turni da 8 ore, non mi sembrava vero. Cioè il 6-2, 2-10, 10-6, cioè era un miracolo. Lì si faceva, se ti andava bene, 7 mattino del 7 di sera, o 7 del pomeriggio, 7 di mattina. Cioè era inimmaginabile che si iniziasse a fare le 8 ore. Per me era uno sconvolgimento talmente grande che non mi sembrava vero. Infatti da lì poi è stata una discesa. Quando i lavoratori hanno capito che la cosa era fattibile, siamo diventati quasi 500 persone. E abbiamo iniziato a pretendere tutto quello che prevedeva il contratto collettivo nazionale e anche di più. Cos'è successo? Perché abbiamo fatto lo sciopero, gli scioperi? Gli scioperi li abbiamo fatti per cercare di portare prima di tutto degli aspetti contrattuali che mancavano, come l'integrazione dell'infortunio, l'integrazione della maternità, diciamo l'assunzione a tempo indeterminato di almeno 300 persone, perché c'erano più determinati che indeterminati all'interno della logistica, e l'abbiamo portata avanti anche per cercare di migliorare l'ambiente nel suo luogo di lavoro. Abbiamo fatto installare delle lampade termoriscaldanti, perché stiamo parlando di magazzini dove c'erano meno 15 gradi d'inverno e più 45 d'estate, e per portare il ticket mensa, ad esempio, e l'ultimo sciopero in particolar modo l'abbiamo fatto perché dopo il 2019, dopo che c'è stato, perché poi io mi sono dimenticato un particolare molto importante, nel 2019 successe un evento che per me era qualcosa, cioè era il completamento della nostra lotta. Durante uno sciopero dove non percepivamo lo stipendio e non capivamo il motivo, non arrivava lo stipendio, vediamo entrare, ma saranno state meno 18 gallette della Guardia di Finanza, nemmeno la Digo sapeva spiegarsi il motivo. Fu arrestato il consorzio per 18 milioni di euro di evasione fiscale, quindi è stato, per me è stata fatta giustizia dopo anni e anni di caporalato, di ingiustizie e di frodi all'interno della CEVA. E cos'è successo? È entrato questo consorzio dopo 12 ore in prefettura, levandoci alcuni diritti che avevamo acquisito attraverso gli accordi sindacali, dicendo guarda, siete senza un posto di lavoro, siete tutti arrestati, quindi approfittando del fatto che c'era questa situazione hanno levato via alcuni diritti, tra cui anche il pagamento della malattia, e di conseguenza nell'ultimo sciopero abbiamo rivendicato il pagamento della malattia, visto che pagavano solo i ricoveri ospedalieri o quant'altro. Abbiamo rivendicato il ticket mensa da 2,50 euro che avevamo a 5,29 euro, ma soprattutto la cosa più importante, abbiamo rivendicato la stabilità occupazionale. Perché questo l'abbiamo fatto? Perché di recente le due più grandi editori che esistono all'interno della CEVA di Stradella, che sono Mondadori e Le Messaggerie Libere, le hanno divise separate in un impianto, quindi i lavoratori di Mondadori sono spostati in Mondadori e i lavoratori di Messaggerie sono rimasti alla CEVA di Stradella. Questo è un tipico movimento che noi crediamo, visto che abbiamo delle fonti certe, che porterà in un futuro a uno spostamento, un trasferimento delle persone e a un licenziamento collettivo. Quindi lo sciopero, l'ultimo che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto assolutamente per rivendicare la stabilità occupazionale, questo è stato il primo dei motivi, e per portare da 2,50 a 5,29 il ticket mensa e per il pagamento della malattia. Devo dire che abbiamo vinto su tutti i punti. Perché? Perché, lo dico sempre ai lavoratori, con l'unità all'interno dei luoghi di lavoro ho capito per esperienza personale che tutto è possibile. Io mi auguro che anche i freelancer dell'editoria possano un giorno unirsi per andare a rivendicare quello che sono i loro diritti, ma anche in tutti i settori, ragazzi, serve solo unirsi. Scusate se mi sono dilungato. No, grazie Massimiliano. Insomma, sono tanti gli elementi che hai affrontato, magari ne riparliamo anche con calma nel dibattito. Adesso però magari chiedo a Mattia se vuole dirci due parole su Redacta, su che cos'è Redacta, e no, se puoi anche stare, come volete. Vai Mattia, vai. Grazie. Eccomi. Ok, buonasera, grazie di essere qua. E vabbè, volevo ringraziare Massimiliano anche da parte di ci seguono anche su internet, ci hanno scritto, ho detto per favore ringrazialo perché ha fatto un intervento bellissimo e quindi insomma, cioè, arrivano anche da lontano. E vabbè, sì, siamo in streaming, sì, quindi tutte le cose che diciamo verranno usate dalla questura, eh? interessante, vorrei riprendere lo stimolo di Massimiliano, cioè il discorso di unire i freelance è esattamente il problema che ci siamo posti noi un paio d'anni fa. Tra l'altro siamo in primo incontro, abbiamo fatto qua vicino e devo dire c'eravamo qualcuno che c'è qua, ma ottima notizia, molti che non c'erano e però oggi sono in red, anzi molte direi, soprattutto tra cui anche Emanuele. E vabbè, quindi come unire? Un po' i problemi che dice Emanuela ci sono ancora, però insomma abbiamo provato a costruire degli strumenti per provare a cominciare a cambiare le cose. Intanto, riprendo anche qua quello che ha detto Andrea, cioè il nostro lavoro parte dal lavoro di inchiesta, cioè la prima cosa che abbiamo fatto è raccogliere i dati, capire chi siamo, chi eravamo, come lavoravamo e le problematiche che avevamo in comune. In realtà la gente arrivava alle riunioni credendo di avere dei problemi unici e irripetibili che non era possibile condividere, in realtà si parlava un'oretta e veniva fuori che anche tu questa cosa, anche tu hai parlato con quello, anche tu ti hanno fregato così, e insomma Quindi piano piano queste cose qua, cioè, si è creato un gruppo sempre più forte, nel senso che lavora stabilmente su questa cosa qua. Poi ovviamente la pandemia ci ha un po' bloccato a questo punto di vista, però io credo che, insomma, dato che dopo il primo incontro dal vivo che abbiamo fatto un mese fa, abbiamo organizzato questa cosa qua, cioè siamo molto veloci, pronti. Non vedevamo l'ora di far qualcosa. Allora, giusto per dare un'idea delle strategie che abbiamo pensato e abbiamo anche applicato, quando abbiamo fatto l'inchiesta per capire chi lavora in editoria, come ci lavora, quanto viene pagato, abbiamo chiesto anche i compensi, cioè di fatto quanto paga ogni casa editrice per fare certe prestazioni. È una cosa che era veramente un tabù, cioè una cosa che non, di cui un freelance normalmente non parla, neanche con gli amici è anche difficile parlarne, perché uno un po' un imbarazzo, dice ah, ma forse poco, forse troppo, non lo sai, e dall'altro però, nel senso, c'è anche quello che diceva Emanuela prima, c'è una competizione di fatto tra lavoratori che è innegabile, è un dato strutturale, che però si può cambiare sicuramente. E quindi, raccogliendo i dati, abbiamo cominciato a intanto mettere a disposizione di chi ci aveva aiutato, e sono ancora sul nostro sito, quindi uno adesso, una cosa che 2 anni fa non si poteva fare, se ti offrono un lavoro tu puoi andare sul nostro sito, vedere quanto offrono gli altri e farti un'idea del mercato. Sembra una cosa stupida, banale, però il fatto che non ci fosse prima, cioè, creava dei meccanismi di sfruttamento incredibili, perché appunto uno arriva nel mercato, non sa niente, non sa quanto vale il suo lavoro, purtroppo, perché le scuole, i master, così, non formano su tutto, ma non su questo. Vabbè, anche sul resto si potrebbe discutere, però questo è un altro discorso. E, però, diciamo che abbiamo i dati, e poi abbiamo fatto anche un'altra cosa, cioè dare dei compensi di riferimento, perché le prestazioni sono diverse e ognuna ha più o meno un costo, cioè un valore orario, e che intanto ci siamo resi conto che pochi di noi ragionavano sulle ore di lavoro, cioè si misuravano, per esempio, quindi guardavano il lavoro, dicevano ok, questo potrebbe andare, però non riflettevano su questa cosa qua. Quindi abbiamo fatto un lavoro di riflessione, ma condivisa con post su blog, incontri, e abbiamo fatto un po' anche di formazione da questo punto di vista. Ma poi abbiamo fissato dei parametri che abbiamo chiamato compensi dignitosi, che adesso uno che esce da un master o da una scuola e vuole entrare in editoria sa che magari per una bozza ti offrono un euro, però un compenso dignitoso parametrato sul contratto collettivo nazionale, adesso non andiamo troppo nello specifico, però è 2 euro. Quindi tu magari sei sfruttato, però lo sai, e magari provi a dire beh, questo è poco, quindi proviamo a negoziare, proviamo a fare un passo avanti. Quello è un piccolo passo che comunque vediamo che funziona. Insomma, in realtà anche alcuni nostri, diciamo, sodali, che in realtà non sono freelance ma lavorano nelle case editrici, usano questi parametri, lo sappiamo, e stanno un po' cambiando anche un po' quanto pagano le case editrici. Cioè, avere comunque un riferimento aiuta, ed è un riferimento di dignità, tanto meglio. E al lavoro di inchiesta di questo tipo abbiamo affiancato anche un lavoro diverso, che io non so come chiamarlo, però sostanzialmente è l'idea che non basta conoscere le cose, ma bisogna cercare di incontrarsi, parlare, e con l'idea di cambiarle sostanzialmente. E quindi su questo, cioè, che è un po' il nostro modo in cui abbiamo fatto partire un'azione collettiva, io farei parlare sicuramente Veronica, che è la persona più esperta, e quindi Veronica, vieni. E rimango io. Ok. Mi dispiace lasciare gli spazi vuoti. Okay. Ok, mi sento. Buonasera a tutti e a tutte. Sono Veronica, io faccio la correttrice di bozze, la redattrice. Ogni tanto impagino libri, quindi una pseudografica, ma il nostro codice Adeco neanche ci consente di inquadrarci in una categoria professionale effettiva. E prima di introdurre la questione, diciamo, che oggi portiamo, che è quella del saggiatore, che ci ha riguardato la gran parte di noi che facciamo parte di Redacta, spendo due parole in realtà su Redacta e sulla prima volta che ho conosciuto in particolare Mattia, Massa e Giulia, che oggi non è presente, che sono stati un po', non so se scordo qualcun altro o qualcun'altra, sono stati un po' i fondatori di questa iniziativa. Ed è stato 2 anni fa, quindi nell'ottobre del 2019, quando in occasione della settimana del freelance che ACTA ha organizzato, abbiamo esposto i risultati dell'inchiesta di cui ci ha parlato Mattia e alla luce della quale appunto a fronte di quasi 50 ore settimanali lavorate in media si guadagnano meno di 15.000 euro l'anno senza la garanzia di un contratto, senza la garanzia di una lettera di incarico e né tantomeno di nessun accordo scritto, quindi non abbiamo nessuna tutela sotto alcun punto di vista. La prima volta quindi che ho conosciuto, che sono entrata a far parte di Red ACTA, mi sembrava che si fosse aperta la possibilità sia di un'azione collettiva, ma anche la possibilità di sconfessare quelle che sono le condizioni che sono date per naturali di un freelance, quindi l'isolamento, una bassa paga retributiva media, l'invisibilità, che è quello che un po' ci accomuna questa sera, e soprattutto un carico di lavoro molto ampio, dato che si guadagna poco si finisce per accettare qualsiasi lavoro che capita e questo significa anche spendere la gran parte della giornata, a me è capitato di lavorare personalmente ma una volta sola e non lo farò mai più, per quasi 20 ore continuative soltanto per non rifiutare un lavoro. E quindi mi sembrava la possibilità questa che mi dava Red ACTA di sconfessare e di contraddire delle condizioni che invece passavano come se fossero naturali. La questione del saggiatore si inserisce esattamente in questo contesto. Il saggiatore, penso lo sappiamo tutti, è una casa editrice di medie dimensioni che tra l'altro vanta nel suo catalogo una tradizione di saggistica improntata su una certa ideologia di sinistra. E quando io ho conosciuto Red ACTA mi sono resa conto che la maggior parte di noi lavorava a quel, diciamo, fino al gennaio di quest'anno per il saggiatore con una certa continuità. Quasi tutti noi provenivamo dallo stesso percorso, quindi avevamo fatto chi un master, chi la magistrale, e poi ci eravamo trovati a fare lo stage in casa editrice, quindi uno stage curricolare formativo, chiaramente retribuito con i buoni pasto, per all'incirca 2 mesi, poi nel corso del tempo le dinamiche sono un po' cambiate, alla fine del quale, se andava tutto bene, si diventava dei collaboratori esterni. Quindi nel corso degli anni si è consolidata quella che possiamo definire una vera e propria redazione esterna parallela a quella interna, dato che abbiamo fatto un conto con le fatture alla mano e nel 2020, quindi l'anno scorso, l'80%, poco più dell'80% dell'intero lavoro redazionale era stato affidato nelle nostre mani. Quindi, per fare un conto, significa che su un catalogo annuo di 120 titoli, più di 90 titoli erano stati affidati alla redazione esterna, quindi a noi che ci occupavamo di tutta la lavorazione del testo, dall'impaginazione fino a consegnarlo nella forma definitiva. Questo significa che tra questa redazione e la casa editrice si era stabilizzata una certa collaborazione che si fondava sostanzialmente su una specie di fidelizzazione, perché si andava per fiducia. La casa editrice sapeva che poteva trovare la disponibilità del freelance, il freelance sapeva che poteva contare sul lavoro che la casa editrice gli assegnava con una certa continuità. A questo punto giunge inaspettata a gennaio una email dalla redazione del saggiatore dove ci comunicano che a seguito di una riorganizzazione interna non meglio precisata il lavoro redazionale non sarebbe più stato esternalizzato salvo poche eccezioni. Adesso, questo per noi ha significato innanzitutto una grande botta sulle entrate economiche, perché un freelance viene pagato, almeno nel settore dell'editoria, in media tra i 90 e i 100 giorni, 120 giorni dopo che ha consegnato il lavoro. Quindi a fronte di una struttura abbastanza precaria bisogna anche cercare di anticipare quelle che saranno le entrate per poter campare fino a fine mese. D'altra parte anche la squalificazione un po' del nostro ruolo professionale, che comunque non era formalmente riconosciuto, ma che la casa editrice nel corso degli anni aveva contribuito un po' a rafforzare organizzando anche delle giornate formative, per esempio dove ci insegnavano a utilizzare InDesign per poter affrontare questa esternalizzazione che c'è stata negli ultimi anni, per cui tutto il lavoro viene affidato integralmente ad un solo redattore che poi deve, insomma, occuparsi dell'intero ciclo di lavorazione. Così decidiamo, anzi no, faccio prima una parentesi, che non è la prima volta che il saggiatore fa una scelta simile. Nel corso degli anni ci sono state alte compressioni del costo del lavoro e a quel punto i collaboratori esterni o decidevano di continuare a stare a quelle condizioni, che potevano significare un aumento degli incarichi richiesti a fronte di paghe che non venivano, diciamo, ripensate in merito, oppure potevano andarsi a cercare migliori fortune altrove e quindi sostanzialmente cercarsi altri committenti. Ma questa volta c'era Red Acta e quindi diciamo che la rassegnazione non era l'unica cosa che potevamo fare. Quindi decidiamo nel marzo, alla fine di marzo di quest'anno, di scrivere una lettera aperta e indirizzarla alla direzione editoriale chiedendo spiegazioni per la scelta che avevano preso. E decidiamo di pubblicarla sul sito, sul blog di Acta e su rispettiva social media. Questo perché? Perché cercavamo di rendere pubblico, di dominio pubblico, una situazione che innanzitutto riguarda il lavoro, quindi ha un carattere eminentemente sociale e collettivo, e che non poteva rimanere confinata all'interno di un discorso privato, come se riguardasse soltanto singolarmente un freelance. Anche perché chiaramente il saggiatore diventa adesso il caso, ma non è l'unica realtà editoriale che si muove in questo modo. Quindi questo poteva anche significare un buon pretesto per poterne parlare tutti insieme. All'interno della lettera, sostanzialmente, riassumo, facevamo tre domande con tanto di elenco. La prima domanda partiva da una considerazione che nel 2020 effettivamente l'editoria, nonostante la pandemia in corso, è stato un settore che è andato abbastanza bene. E in particolar modo il saggiatore, secondo il bilancio annuo che è stato pubblicato e secondo un'intervista rilasciata ad Andrea Gentile, che è il direttore editoriale, avrebbe nel bilancio ha avuto un discreto successo che non si vedeva, insomma, secondo quanto lui scrive, negli ultimi, se non sbaglio, 10 anni. Quindi noi innanzitutto gli abbiamo chiesto perché decidere di ridurre drasticamente il costo del lavoro esterno. In secondo luogo ci chiediamo se il catalogo è ancora di 120 libri annui, chi lo fa? Cioè chi lo gestisce una mole di libri del genere? Quindi abbiamo proposto due soluzioni, scusate. C'è un po' d'acqua? Grazie. Grazie. Due soluzioni. Una, l'aumento della redazione interna, che oggi, se non mi sbaglio, è pari a 4 redattori, si può consultare, grazie, anche nel sito della casa editrice, cosa che però non è ancora successa. Un'altra alternativa sarebbe stata quella di ripiegare sul numero degli stagisti. Ma se fino a 2 anni fa, quando non c'era la pandemia, noi frequentavamo la casa editrice per la consegna o per la presa in carico di una bozza e potevamo controllare anche informalmente se c'erano meno stagisti a quanto ammontava il loro numero, ad oggi non possiamo più farlo. Quindi qui ci tengo a sottolineare che sotto, diciamo, al di sotto della propaganda del libero professionismo, per cui si pensa che sia una sorta di vittoria rispetto al lavoro dipendente, si nascondono gli stessi problemi, che sono quelli che appunto abbiamo visto fino adesso. E di conseguenza darli, diciamo, spacciarli per naturali, come se le cose non potessero andare diversamente, significa anche smettere di trovare un'alternativa, quello che appunto stiamo cercando di fare. In particolare in un settore in cui, come il nostro, innanzitutto vige la regola del dumping, se si pronuncia così, che significa che alla fine chi accetta meno, chi accetta di guadagnare di meno, lavora di più. Perché non essendo tutti formati e non essendo tutti a conoscenza di quali sono le paghe medie, soprattutto chi affronta questo percorso all'inizio non sa esattamente quanto dovrà essere pagato e quindi magari ci si ritrova anche ad accettare, non so, una bozza che viene contata a cartella per il pagamento a 20 centesimi, che è assurdo e, non lo so, disumano. D'altra parte c'è anche chi ricorre all'aumento del numero degli stagisti, quindi questo significa che il numero di stagisti viene aumentato in maniera non proporzionale rispetto al numero dei redattori interni ed è forza lavoro che non è propriamente qualificata ma è gratuita. A quel punto, un giorno soltanto dopo, Luca Formenton, che è l'editore del Saggiatore e sottolineerei anche uno degli eredi della Mondadori, dato che siamo in argomento, Ci ha risposto, ma ci ha risposto in forma privata e ha mandato un'email all'ufficio stampa di ACTA, dove sostanzialmente ha eluso tutte e tre le domande che abbiamo fatto, anzi erano tre domande più una, perché l'ultima riguardava la qualità del libro, perché a quel punto non sapevamo chi l'avrebbe più garantita, e ha ribadito due punti. Uno, che noi siamo dei freelance e per questo siamo dei lavoratori autonomi e dobbiamo avere più committenti, ma anche è vero che per portare avanti una collaborazione così salda, che sembrava così salda nel tempo, significa che alcune altre proposte le abbiamo rifiutate e quindi altri committenti le abbiamo persi nel tempo. In secondo luogo, ribadiva che il saggiatore non è una realtà capitalistica, cosa che chiaramente noi non abbiamo insinuato, ma soprattutto sottolineava lo spirito di collaborazione, di solidarietà presente all'interno della casa editrice, non considerando appunto la presenza di questa redazione esterna che ha curato l'80% dei libri soltanto nel 2020. Quindi noi abbiamo risposto celermente, sempre in forma aperta, senza riportare la risposta di Formenton per questioni di privacy, e ci siamo limitati semplicemente a ribadire le quattro domande che gli avevamo posto. A queste quattro domande non c'è stata mai una risposta e non c'è tuttora. Spenderei poi due parole, anche rispetto a quello che ha detto Mattia, sul perché effettivamente una cosa del genere non ha suscitato, non dico lo scandalo, ma quantomeno l'interesse che uno ci si aspettava, perché è la prima volta che una casa editrice si trova a confrontarsi non più con la lamentela di un singolo libero professionista che rivendica una condizione a cui tutto sommato poi alla fine ci si abitua, ma si è trovato a confrontarsi con la rivendicazione di un gruppo organizzato che addirittura rivendicava per sé una sua identità collettiva. Difatti, quando abbiamo pubblicato la lettera sui social, ci sono arrivate in forma privata molte altre testimonianze anche rispetto ad altre realtà editoriali. Alcuni ci hanno fatto i complimenti, altri ci hanno criticato, ribadendo quello che ha scritto Formenton, cioè che noi non dovevamo impicciarci perché la cosa non ci riguardava, il che, non lo so, è assurdo. Dopodiché anche Cristian Raimo ci ha dedicato un paragrafo in uno degli ultimi articoli che ha pubblicato sul Tascabile in merito alla vicenda, ma ciò nonostante non c'è stato un responso su un piano pubblico effettivo, una partecipazione maggiore, almeno quello che personalmente io mi sarei aspettata. E questo perché, secondo me, innanzitutto perché il settore in cui lavoriamo è un settore in cui è altissima la concorrenza, come diceva Mattia. Quindi questo significa che è difficile pensare a un nostro collega come se fosse un alleato. Il più delle volte lo guardiamo come se fosse un rivale, perché è colui che potenzialmente, o colei, che potenzialmente può sottrarci il lavoro e con il lavoro la committenza. A questo punto quindi si forma questa sorta di grande spettro collettivo anonimo, che è un capo espiatorio, a cui non possiamo neanche attribuire un'identità. In secondo luogo c'è la questione della mercificazione del tempo, se così possiamo definirla, perché col fatto che si guadagna poco, più si lavora e più si guadagna. Ma questo significa che tutto il tempo libero che noi dovremmo dedicare alle relazioni sociali, a momenti anche come questi, subisce una radicale compressione, quindi uno non ha neanche tempo fisico per poter riflettere sulle condizioni in cui lavora e chiedersi se valga la pena fare qualcosa per poterle in qualche modo cambiare. E in terzo punto, e qui concludo, e secondo me uno dei più importanti, perché mi ha riguardato anche direttamente, è che l'esposizione pubblica delle proprie opinioni, anche se vogliamo critiche in merito alle condizioni di lavoro in cui uno si trova ad operare, molto spesso rappresentano un rischio, perché a volte significa anche rischiare di perdere la committenza. Io mi sono esposta sin dall'inizio con il saggiatore e ho lavorato per loro sin dall'inizio della mia, diciamo, tra virgolette, carriera, quindi parliamo di 3 anni e mezzo, 4, e dopodiché non ho più avuto nessun contatto con la casa editrice. E questo un po' frena quella formazione dell'identità collettiva che invece Redacta così tanto si auspica. Ed è per questo che io credo che parlarne e confrontarsi, conoscere le storie degli altri, non soltanto ci consente di avere uno sguardo quanto più possibile obiettivo sulla vicenda, ma penso anche che sia la premessa per tentare un'azione di gruppo, perché se un uomo o una donna rivendica un diritto che lo riguarda o che la riguarda in forma isolata, può essere tacciato, come è successo anche nel nostro caso, di delirio, ci hanno detto che siamo deliranti, ma se lo fanno, diciamo, almeno 100 persone, credo che gli occhi non possano più essere chiusi davanti a una realtà simile. Grazie. Grazie Veronica e anche a Mattia e a Emanuela. E dunque adesso magari proviamo un po' a mischiare le carte, no? Nel senso, abbiamo ascoltato un po' le testimonianze e io ho giusto un'osservazione che magari potrebbe aiutare a riflettere per una riflessione condivisa, e mi viene da pensare su, diciamo, banalmente sulle le similitudini e le differenze, no? Se si può fare questo esercizio mentale per provare a riflettere un po' su quelle che sono, su quelli che sono i punti in comune e quelli che sono poi invece i punti distinti di ciascun caso. Sia Mattia che Emanuela che Veronica hanno comunque accennato all'elemento dell'individualizzazione dei rapporti di lavoro, cioè nel senso c'è un problema oggettivo, no? Che è stato menzionato più volte, quindi il tentativo di ricomporre un po' una composizione di lavoratori e lavoratrici nell'editoria è un lavoro, insomma, che richiede tempo, che richiede dedizione e che richiede molta insomma, pazienza. E, anche perché appunto nell'intervento precedente invece Massimiliano parlava soprattutto di unità, no? Insisteva anche molto sull'elemento unitario della forza lavoro. Poi magari su questo c'è anche Alberto che ha scritto un articolo interessante di recente su Machina, parlando proprio della vertenza della città del libro, dopo se vuole fare un intervento, però io volevo chiedere a Sergio Bologna se voleva fare una riflessione in merito a questi elementi che contraddistinguono i due casi sulla, come, lungo la filiera del conflitto che riguarda poi intorno al libro, oggetto fisico del libro, e gli elementi che invece accomunano volendo i due casi, anche perché di recente proprio Sergio aveva mandato al gruppo allargato della nostra rivista una riflessione che cercava proprio di fare questo tipo di riflessione. Sergio. Data la mia età non posso non fare anche un accenno al passato, ricollegandomi a quello che diceva Robertino. Ovviamente io conosco la Calusca dall'inizio, ma soprattutto perché con la Calusca abbiamo fatto la rivista Primo Maggio, uscita nel 1973. La rivista Primo Maggio è stata l'unica rivista di quegli anni che ha posto il problema della logistica dei trasporti. Cioè, noi siamo stati anticipatori rispetto a tutti. Abbiamo pubblicato gli articoli sulla condizione dei facchini, sulla condizione dei camionisti, sulla condizione dei portuali. Quindi, diciamo, la logistica come terreno di conflitto è stata individuata all'interno della Calusca. Alcuni anni dopo abbiamo fondato assieme a Primo Moroni una rivista che si chiamava Altre Ragioni. In questa rivista Altre Ragioni è stato pubblicato il primo articolo sui freelance, sulla condizione dei freelance. Alcuni anni dopo abbiamo fatto una cosa che si chiamava Università, Libera Università di Milano e suo Interland, e con questa cosa abbiamo pubblicato nel 97 con Feltrinelli il libro intitolato I lavoratori autonomi di seconda generazione, che è stato un libro che ha ispirato ACTA. Quindi sia per quanto la logistica che per quanto riguarda i freelance, Calusca è stata una delle culle, diciamo, di questa riflessione. Questo per quanto riguarda il passato. Per quanto riguarda l'attuale, assieme ad ACTA e soprattutto per l'iniziativa, l'attività di Mattia, di altri soci, stiamo facendo questa inchiesta sui settori, i lavoratori dell'audiovisivo, che a Milano hanno un'importanza notevolissima. È un settore molto complesso, veramente molto complesso, dove stiamo imparando molte cose, diciamo, diverse da come noi ci immaginavamo funzionasse la figura del freelance. Non sta andando così bene, diciamo, come a Redac, abbiamo avuto alcune difficoltà. È chiaro che, diciamo, il problema dei freelance è un problema fondamentale, perché sono loro i primi responsabili del loro sfruttamento. quando tu sei disposto a lavorare a 5 euro per meno di un tuo collega, è colpa tua se poi ti fregano, no? Quindi l'unità dei freelance, quella solidarietà tra i freelance, il fatto di comunicarsi le rispettive tariffe a cui uno lavora, è il primo passo per riuscire a evitare questo tunnel dell'autosfruttamento. Tra l'altro, come dire, noi l'abbiamo sempre impostato sul lavoro con grande respiro internazionale, non è un caso che siamo sister organization della Freelance Union americana, che è un'organizzazione di 500.000 di soci, come dire, e quindi diciamo anche questo fa parte di una impostazione culturale molto importante. Per quanto riguarda la logistica c'ho poco da dire. Evidentemente sull'ultimo numero di Officina Primo Maggio ne parliamo, e secondo me, diciamo, se uno pensa al conflitto nella logistica, nel 2011 è partita la lotta alla TNT del Sicobas, è stato il momento di inizio di un ciclo di lotte che praticamente hanno riportato finalmente in Italia la conflittualità all'interno dei luoghi di lavoro industriali, cioè, perché altrimenti questa conflittualità era sparita. Quindi la logistica, i lavoratori della logistica hanno avuto un ruolo importantissimo in questi anni a rilanciare la problematica, la tematica, diciamo, delle lotte sul luogo di lavoro. E quello che è successo recentemente, dopo la morte e l'assassinio di Adil, è una cosa anche lì particolarmente importante, secondo me una piccola svolta c'è stata. Adil era un militante del Sicobas, e molti lavoratori della FIOM, dei metalmeccanici della FIOM, pur essendo lui del Sicobas, hanno scioperato per protesta di questa cosa qua. È una svolta secondo me importante anche questa. Noi abbiamo cercato dentro, tra l'altro, la redazione di OPM a provare a tenere insieme queste cose con molta difficoltà, con difficoltà anche interne, rischiavamo di non uscire con questo numero per difficoltà interne. Però il fatto di dire in Italia sta succedendo qualcosa di diverso, finalmente i lavoratori riprendono loro in mano le cose al di là delle sigle, al di là dell'organizzazione, eccetera, questo fa, come dire, sperare bene, e come dire, che si avvii, come si apre probabilmente una nuova stagione. Io spero che questa cosa avvenga. Penso diciamo che noi siamo tra quelli che, come dire, proprio per questa lunghissima storia che abbiamo, ecco, una storia che risale agli anni 70, questa cosa riusciremo forse a... Abbiamo centrato molte cose, forse che riusciamo a centrare anche questo. Grazie Sergio. Sì, che nell'ultimo numero, come accennavi, è stato affrontato il tema della logistica, anche nel penultimo, così come la questione relativa al lavoro editoriale. Magari a proposito di questo, io ritornerei sulla vertenza alla Città del Libro, chiederei ad Alberto magari di spendere due parole e poi magari lasciamo spazio ad altri interventi. Grazie Alberto. Io in realtà io sono un sindacalista dell'Istituto Nazionale di Statistica, cosa che vi farà ridere, però per varie ragioni mi sono trovato a occuparmi di logistica. Questo tipo in realtà riassume il fatto che sono un sindacalista dell'Istituto Nazionale di Statistica, dove esiste, diciamo, un'associazione sindacale del tutto indipendente sia dai sindacati cosiddetti di base che dai sindacati confederali, e che deriva da un collettivo indipendente di lavoratori. Questo lo dico perché poi ci torno a lungo. È la terza delle cose che voglio dire. La prima cosa è mi sono lungamente occupato di logistica e conoscevo, diciamo, la vertenza di Stradella. Vi vorrei far notare una cosa delle storie, diciamo, dello stralcio di inchiesta che è stato fatto dietro questo microfono. Massimiliano ha raccontato che per punirlo lo mandavano, che lui era un mulettista, che diciamo è quella mansione per cui i bancali li sposti con una macchina. Non è detto che in magazzino sia così, può anche darsi che, come dire, devi fisicamente utilizzare le mani, e che per punirlo lo mettevano a fare o mansioni strettamente manuali o pulizie addirittura del magazzino. Questo vuol dire che anche all'interno del mondo della movimentazione delle merci, che magari chi non conosce assume come unitariamente meno qualificato, esiste una gradazione di qualifiche che viene cristallizzata dentro delle mansioni poi del contratto nazionale di lavoro. Che cosa ha fatto, che cosa hanno fatto ADL Cobas e Sicobas nelle loro piattaforme sindacali? E quindi, diciamo, cito queste due organizzazioni e poi lo spiego alla fine perché. Hanno detto: non ci interessa che queste mansioni siano cristallizzate nel livello. Tu puoi partire anche da sesto junior, che è, diciamo, il livello più dequalificato, con l'anzianità passi a quarto super, che è il massimo della qualifica dentro un facchino, dentro un magazzino. In questa maniera non è chi il preposto, ovvero l'operaio anziano o non anziano incaricato dalla proprietà, a scegliere chi ha le mansioni superiori o la qualifica superiore. C'è un criterio oggettivo che fa sfuggire i facchini alla competizione interna o magari all'ideologia che talvolta spesso si ritrova in magazzino, per cui sono io quello che merita il quinto livello, sono io quello che merita il quarto livello. Tanto prima o poi ci arriviamo tutti. Perché dico questa cosa? Perché una parte diciamo della difficoltà dentro il lavoro qualificato è la passione che veniva raccontata alla lavoratrice nel primo intervento, che magari ti spinge a lavorare oltre il livello con la speranza che qualcuno in redazione ti coopti a una mansione diversa. Quindi, come vedete, come dire, non sarò io a indicare qual è lo strumento di piattaforma sindacale che può evitare diciamo questo meccanismo di sfruttamento, perché secondo me Redacta è una bellissima esperienza proprio perché è una forma alternativa di sindacalismo assembleare che sceglierà il tipo come dire, di rivendicazione da fare. La cosa molto bella già che hanno già raccontato è l'idea di, pur da lavoratori autonomi, pubblicizzare un tariffario nella speranza che questo diventi quanto più, come dire, introiettato possibile, per poi magari farlo diventare obbligatorio normativamente, eccetera, eccetera. Il secondo punto che voglio dire velocissimo, e che secondo me l'esperienza da fuori, mi sembra che l'esperienza di Redacta sia stata possibile anche perché la forma giuridica del lavoro poco corrisponde all'erogazione del lavoro vivo in questo caso. Cioè, se tu mi dai un carico di lavoro, mi puoi chiamare lavoratore autonomo e dei tempi, mi puoi chiamare lavoratore autonomo quanto vuoi, però in realtà su questo va detto che va aperta una questione coi giuristi del lavoro, perché è francamente fuori da ogni grazia di Dio che in Italia si possano chiamare contratti parasubordinati dei contratti come quelli che sono stati raccontati. In ultimo, e qui chiudo, sono state insomma, dette parole molto più autorevoli poco fa da una persona molto più autorevole di me. Io non so se sta per iniziare un ciclo, so insomma che lavoreremo perché questo succeda. E penso che una parte fondamentale questo riinizio sia riappropriarsi degli strumenti organizzativi di associazione tra i lavoratori. Il futuro del lavoro lo deve decidere chi lavora. E in questo, anche in questo, Redacta e i comitati di base di ADL Cobas e Sicobas, che sono dei sindacati dove non esiste una trattativa a cui non sia da un tavolo anche l'RSA nominato appena 5 minuti prima, che magari parla stentatamente l'italiano, perché poi si possa lui stesso riferire ai suoi lavoratori e fare l'assemblea e decidere sulle decisioni da prendere. Ecco, io penso che questo sia fondamentale, nel senso che l'espropriazione dei percorsi di direzionamento politici e organizzativi è molta parte dell'arretramento del lavoro in questo paese. Grazie Alberto. Ci sono altri interventi? Qualcuno che vuole? Prego, vieni pure. Grazie. Assolutamente. Ciao. Allora, innanzitutto volevo ringraziare Massimiliano e Emanuela, che hanno condiviso le loro storie, perché non sono semplici storie, secondo me, almeno io non le ho vissute così. Secondo me parlare dei propri percorsi, delle proprie esperienze, aiuta ad uscire da quell'atomismo, da quell'isolamento, che fondamentalmente è voluto, è funzionale. E non è solamente, diciamo, di questa categoria lavorativa, quindi sia della logistica che dell'editoria, è sistemico, cioè in tutti i lavori. Io sono vicino alle dinamiche dell'educazione, ma anche nell'agricoltura, e fondamentalmente è funzionale al sistema l'atomismo. Quindi parlare delle vostre storie, condividerle, secondo me è qualcosa che aiuta ad entrare dentro un mondo che tante volte percepiamo da fuori, marginalmente. Ad esempio la logistica, purtroppo, talvolta balza in un'ora di cronaca. Sull'editoria se ne parla molto poco. E credo che, ad esempio, io ammetto che Redacta non la conoscevo ed è stato un bel incontro, molto casuale, a dire il vero, perché non sapevo neanche che ci fosse questa iniziativa, lo ammetto. Stasera sono felice di averla conosciuta, perché sempre sul solco delle storie di vita, io conosco una persona che vive le stesse dinamiche, che non riesce a trovare un lavoro, solamente contratti di collaborazione, tra l'altro contratti farlocchi non mantenuti. E la cosa più forse frustrante per questa persona è stato proprio l'isolamento, quindi non entrare in contatto con altre persone che vivevano questa situazione. La nostra risposta è stata, avendo qualche conoscenza di hosting, di funzionamento della rete, di gestire un nostro piccolo sito, quindi continuare a mantenere viva quella passione, perché fondamentalmente chi decide di entrare in questo settore non credo che lo faccia sulla base del mercato occupazionale o della retribuzione economica, lo fa anche per un discorso di passione. E quindi mantenere viva quella passione, avere quella possibilità di mantenere viva un'attività che è molto preziosa, è ugualmente fondamentale. E quindi in realtà vi volevo chiedere se Redacta, oltre al lavoro di inchiesta molto interessante che avete proposto, volevo sapere se aveva per caso una qualche forma di progettualità nel cercare di fare rete e quindi di unire queste persone che comunque sono in qualche modo escluse vengono escluse da un mercato del lavoro, quindi necessariamente escluse socialmente dalla possibilità di potersi di avere un futuro, di vivere nella precarietà. Volevo sapere se, oltre alla rivendicazione lodevole dei diritti dei lavoratori, se c'è anche una qualche forma di unione della domanda, quindi aiutare altre persone che hanno difficoltà di inserimento lavorativo da quel punto di vista a continuare a mantenere viva una passione. Non so se la domanda è chiara. Sì, mi sembra di sì. Vabbè, intanto la passione è un po' un'arma a doppio taglio, come è evidente da quello che abbiamo detto, no? Nel senso che è anche una motivazione spesso per appunto prendere questi compensi folli, quindi sì, è un tema che ci sta molto caro. Tra l'altro abbiamo fatto un paio d'anni fa abbiamo rimesso in scena una Via Crucis a Milano per raccontare un po' la passione, ma nel senso cristologico. E allora, no, ti dico, quando noi proviamo a fare degli eventi, abbiamo fatti molti online, così, in realtà la maggior parte delle persone che viene, che è interessata, appunto sono quelle che racconti tu, cioè persone che magari stanno entrando nel mercato o che si stanno facendo un'idea così e magari appunto nella formazione ordinaria non trovano risposte e quindi da quel punto di vista lì funziona molto bene. Però sì, il nostro lavoro è sia inchiesta che avere una rete sia operativa ma anche una piccola comunità. Abbiamo una newsletter, una mailing list in realtà, che serve appunto per scambiare opinioni, anche insomma lavori e cose così, e stiamo sui social il meno possibile, però insomma cerchiamo di sfruttare la rete per le sue dinamiche più sane, per allargare la rete anche fuori da Milano, che è anche un tema che noi abbiamo toccato. Però a Milano c'è una concentrazione di lavoratori di editoria incredibile, che c'è anche accelerato molto la nostra crescita, però d'altra parte anche tenere un punto di vista solo milanese è problematico. Infatti abbiamo fatto riunioni e lavori di inchiesta anche su altre città che hanno dei contesti produttivi completamente diversi. Però vabbè, non so se ho risposto. Ok, bene. Grazie. Ci sono altre domande, altri interventi, osservazioni? Roberto. E poi Proprio una mezza parola. Io son molto d'accordo con quello che ha detto lui a proposito del fatto che ACTA e Red ACTA dovranno, discutendo insieme, trovare i modi dell'agire. A questo riguardo, sentite la discussione, mi è venuto in mente che Industrial Workers of the World un tempo erano molto forti nel settore della ristorazione, tra i tanti in cui hanno portato la loro carica di lotta. E una delle armi più temute dai padroni era semplicemente dire che cosa c'era nei piatti ai clienti. E un compagno prima mi ha detto, ma insomma, sti lettori, troviamo la maniera di farli elemento attivo in questa lotta, perché è chiaro che se 30 del saggiatore dicono no, quelli dicono vabbè, andate pure a cercarvi un altro lavoro, ma se 3.000 lettori attraverso i social fanno pressione, e quindi anche questo significa recuperare uno dei tanti modi di fare lotta, il boicottaggio, la pressione del consumatore rispetto al padrone, e insomma secondo me vale la pena di pensarci. Ecco, volevo solo far questa scena. Sicuramente ne avrete già ragionato, però sentendo la discussione mi è venuta in mente sta roba. No, su questo, grazie Roberto, grazie, ottimo spunto. In realtà c'è l'operazione che abbiamo fatto col saggiatore, una delle idee strategiche che abbiamo avuto è stata proprio questa, cioè che noi vediamo anche da interviste che stiamo facendo adesso, che le case editrici sostanzialmente dicono ok, la produzione non è più il nostro core business, la produzione è una cosa esterna, noi agiamo come aziende commerciali sostanzialmente, che hanno dei fornitori che fanno le cose, noi le rivendiamo. E abbiamo, che cosa abbiamo? Che ci distingue da qualsiasi altra? È sostanzialmente quello che viene chiamato brand adesso, no? Cioè il marchio. E il marchio è tutto. E come diceva Veronica, una casa editrice come il Saggiatore, che ha questa tradizione di sinistra così, sicuramente un brand che okay, tu ti compri il libro e c'è il marchietto che è Simone de Beauvoir, tutto il grande catalogo, viene fuori questa cosa qua in cui... tra l'altro prima Alberto ha citato contratti parasubordinati, qui non c'era nessun contratto, cioè questo, quindi troppo ottimista forse. No, ecco, quindi per dire, Robertino, sì, è un ottimo spunto e l'idea è un po' quella, cioè cercare di fare questa mossa di judo, che se tu punti tutto sul brand, noi ti colpiamo proprio sul brand e vediamo se si riesce un po' a riequilibrare questo squilibrio enorme che c'è tra committente e lavoratore, ecco, quella è un po' l'idea. Scusate, non intervengo più. Prego, prego. Ciao a tutti, io sono Matteo e sono un lavoratore e delegato sindacale di una grande libreria, di una grande catena editoriale italiana. Quindi mi trovo un po' tra i due fronti, tra i ragazzi di Ceva, per cui abbiamo tifato quando hanno fatto l'ennesimo sciopero, facendo anche comunicati interni che creano sempre un po' di fastidio, perché poi i grandi editori tendono a dire «Ah, ma noi non c'entriamo niente, cioè, non ne sapevamo nulla dello sfruttamento», diceva, quando è venuta fuori ovviamente l'inchiesta della magistratura, come dice un famoso pezzo hip hop americano, «Wasn't me», cioè nessuno mai sa nulla e la responsabilità è sempre degli altri, e poi ovviamente tra il mondo degli editori e degli editor. Vi racconto qualche cosa sul mondo insomma, di chi è in prima linea a vendere libri, su come è mutato negli ultimi anni, e poi un suggerimento che mi è venuto in mente sentendo gli ultimi interventi. Allora, sicuramente la pandemia ha dato una mazzata più o meno diversificata al mondo del retail, cioè della vendita dei libri, facendo avanzare ancora di più l'online. Di fatto Amazon in un anno di pandemia ha conquistato fette di mercato che sarebbero stati necessari 5 anni, probabilmente 5 anni normali per conquistarle. Quello che si sta diffondendo sempre di più all'interno del mondo delle grandi librerie, quantomeno, è il multicanale, quindi la vendita del libro fisico all'interno della libreria, ma poi una serie di servizi che vanno a integrarsi con l'online. Questa cosa porta a un'evoluzione della figura del libraio, perché se uno guarda i piani orari quella che poteva essere definita l'epoca d'oro un po' delle librerie, anni 90, anni 2000, si rende conto che cioè il lavoro che un tempo veniva fatto da il doppio dei lavoratori adesso viene appaltato più o meno alla metà, e questi lavoratori devono fare anche altre cose, cioè gestire anche con canali online e così via. Quindi questa è l'evoluzione in corso nel mondo dei librai. Se posso dare un suggerimento, mi sembra evidente che nell'editoria conti molto l'immagine. Cioè, tanti editori campano e si fanno belli della loro immagine, no? Di progressismo e così via. Ecco, forse colpire l'immagine che il pubblico, i lettori hanno di questi editori potrebbe essere un passaggio interessante. E dei modi, cioè ci sono anche dei modi molto terra terra, cioè di azione in prima persona, nel senso, io mi immagino ovviamente qualcosa di molto simile al Padrone di Merda di Bologna, cioè immaginiamoci un flash mob di 100 persone sotto il Saggiatore, ovviamente magari non con gli editori del Saggiatore, ma non so, con i volti parruccati in qualche modo carino, ovviamente, o fatto da persone che non sono riconducibili. Questa cosa, secondo me, potrebbe iniziare un po' a creare una rete di azione di sindacalismo sociale che, secondo me, sul mondo dell'editoria, che non è abituato alla conflittualità, perché io devo essere sincero, l'ultimo sciopero serio che noi abbiamo fatto è quello sul Job Act, quindi stiamo parlando di quasi 10 anni fa, potrebbe essere un passaggio interessante. Questo è tutto, e sempre solidale con i lavoratori di Ceva di Stradella. Grazie. Grazie anche per questo intervento. Non so se ci sono altre osservazioni, altre domande. Nessuno vuole intervenire? Ok, io direi che possiamo andare verso il termine. Vi ringrazio di nuovo per la partecipazione, penso che siano emersi molti temi. Roberto, volevi fare un altro? Proprio di chiusura, okay. finisci. No, giusto veramente per spendere due parole di ringraziamento per Massimiliano, per Mattia, per Veronica, Emanuela, le redattrici e i redattori di Redacta e gli altri interventi che sono stati fatti, anche Alberto. Penso che siano comunque temi che vadano comunque monitorati e osservati con attenzione in futuro, perché meritano ulteriori approfondimenti, soprattutto perché si tratta di questioni in evoluzione continua. E appunto mi sembra di capire che dalle testimonianze che sono state fatte ci sono comunque degli elementi di particolari di ciascun caso, però assistiamo anche a delle tendenze strutturali, sistemiche, come ha detto qualcuno. E nella dovuta differenziazione è importante comunque cercare di confrontarsi e di dialogare anche per favorire dei processi e alimentarli. Penso appunto al processo di adesione, partecipazione a un conflitto come quello che viene portato avanti dai redattori e le redattrici di Redacta, che si trovano comunque a dover affrontare una complessità in termini di rapporti di lavoro e di individualizzazione, quindi le pratiche possono essere anche un momento di appunto autodeterminazione, di soggettivazione, dove uno si rende conto della propria condizione, perché non è affatto scontato che ci sia consapevolezza, soprattutto in un processo iniziale, no? Quando si inizia ad avere a che fare, no? con certe dinamiche. Prima Veronica accennava proprio al fatto del fatto che lavora di più chi si fa pagare di meno, quindi si tratta ovviamente di contraddizioni che richiedono tempo e dedizione per essere poi trasformate in un'ottica migliorativa. Ovviamente noi con la rivista cercheremo di continuare ad affrontare queste dinamiche, questi fenomeni in futuro, e magari se avete anche voglia di supportare il nostro lavoro, potreste, oltre a comprare la rivista al banchetto, iscrivervi alla newsletter per ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti. Vi ringrazio ancora, e Robertino, vai. Sì, io concludo non sul piano dei contenuti, bensì di possibili continuazioni di questo primo incontro. Prima è stata citata la ricerca sui lavoratori dell'audiovisivo, si è tralasciato però di dire che c'era l'idea, dopo l'estate, di fare un momento simile a questo, in cui da una parte vengono resi noti i primi risultati di questa ricerca in corso, e dall'altra, insieme a lavoratori del settore, agli studenti della scuola di cinema, a chi ha un po' le mani in pasta in questa cosa o a chi è semplicemente interessato, si cerca di ragionare, e quindi questa cosa non ha ancora una data, ma se ne era parlato qualche giorno fa, sicuramente se siete d'accordo cercheremo di realizzarla. La seconda cosa riguarda invece quell'incontro, magari ancora più informale di quello di stasera, un po' sulla Calusca, il libro, nelle storie del movimento, la distribuzione, eccetera. Ecco, io penso che anche in quell'occasione si potrà non soltanto ricordare pezzi della nostra storia, ma ragionare su questioni dell'oggi. La prima cosa che mi viene in mente è, perché è venuta fuori, per quanto non nominata direttamente anche stasera, è l'ideologia del lavoro. E l'ideologia del lavoro culturale, fra tutte le ideologie del lavoro, è quella sicuramente più truffaldina. Per cui un ragionamento intorno a questo vale la pena di farlo, perché ha delle conseguenze pratiche, innanzitutto nella maniera in cui uno si vede, ma poi nella maniera in cui ci si confronta con col padrone. Ecco, questa è la seconda cosa che voglio dire. La terza è semplicemente un invito a partecipare a due iniziative che si svolgeranno qui prossimamente. Quella del 21, quando, riprendendo una giornata molto bella sabato scorso su Genova 2001, faremo un altro appuntamento in cui innanzitutto potranno essere evase tutte le questioni, le domande, i dubbi che i tanti partecipanti sabato scorso, perché il cortile era strapieno e fuori c'era altrettanta gente, ecco, per motivi di tempo non hanno potuto fare. Verrà mandato un film nuovo che è stato montato e insomma si continuerà a discutere intorno a quello che è stato un passaggio storico-politico fondamentale della nostra vicenda passata, ma che in realtà continua oggi. L'altro appuntamento invece è quello del 16, quando si concluderà qui il Ferlinghetti Corner, cioè una serie di reading, letture e ragionamenti intorno a questa figura fondamentale della cultura beat, poeta, editore e animatore della libreria City Lights con la quale la Calusca è federata, e ci sarà anche la finale del premio Dubito, un premio di giovani, che sarà la sezione video. Ecco, per cui vi invito a questi due momenti. Ecco, nel secondo la passione dell'idea, della scrittura, della produzione fortunatamente riesce a non essere il veicolo per mettertelo in quel posto, ma invece un'espressione vera dell'umano. Basta. Grazie ancora a tutti e a tutti.